Sedicesima traccia. Era quasi il momento in cui essa sarebbe probabilmente capitata. Se avesse incontrato Miss Babe cammin facendo, e siccome cominciò a piovere, Emma fu costretta ad aspettarsi che il maltempo l'avrebbe trattenuta da Mrs. Goddard e che la notizia indubbiamente gli sarebbe piombata addosso senza preparazione. L'acquazzone fu violento ma breve, e non era passato da 5 minuti che entrò Harriet, proprio con l'aspetto scalmanato, agitato, che doveva dare il venire in fretta col cuore gonfio. E quel «Oh, Miss Woodhouse, immaginate che cosa è successo», che esplose immediatamente, aveva tutta l'aria d'un corrispondente turbamento interiore. Siccome il colpo era stato dato, Emma sentì che ora non poteva mostrare più grande gentilezza che di stare ad ascoltare. E Harriet, non frenata, si buttò a capofitto in quel che aveva da dire. Era partita da Miss Goddard mezz'ora prima. Aveva avuto paura che piovesse, aveva avuto paura che da un momento all'altro si mettesse a diluviare, ma pensava di poter arrivare a Arfield prima. Era andata più speditamente che aveva potuto. Ma ecco che mentre passava dinanzi alla casa dove una giovane donna le stava facendo un vestito, le era venuto in mente di entrare a vedere come procedeva il lavoro. E sebbene non sembrasse fermarsi in mezzo minuto, appena uscita era cominciato a piovere. E lei non aveva saputo che fare, così aveva sentatosi aiutato a correre più presto che poteva, e si era riparata da Ford. Ford era il principale negozio di lanerie, biancherie e mercerie combinate, il primo negozio del posto per grandezza e moda. Così era rimasta seduta là, senza pensare a nulla, per 10 minuti buoni, forse, quando tutto a un tratto ti va a capitare lì dentro, strano davvero, ma sempre si servivano da Ford. Chi va a capitare se non Elizabeth Martin col fratello? «Cara Miss Woodhouse, pensate», continuò Harriet, «ho creduto di svenire, non sapevo che fare. Ero seduta vicino alla porta. Elizabeth m'ha vista subito, ma lui no. Era occupato con l'ombrello. Sono sicura che lei m'ha visto, ma subito ha voltato gli occhi da un'altra parte e ha fatto finta di non vedermi. E tutte e due andarono all'estremità opposta del negozio e io sono rimasta seduta presso la porta. Oh Dio mio, come mi sono sentita infelice. Sono sicura che dovevo sembrare bianca come il mio vestito. Non potevo andarmene, sapete, per via della pioggia, ma quanto desideravo essere dappertutto nel mondo fuorché lì. Oh Dio, Miss Woodhouse. Ebbene, alla fine, mi immagino, lui ha guardato intorno e mi ha veduta. Perché invece di continuare a fare i loro acquisti, incominciarono a parlare tra loro sottovoce. Sono sicura che parlavano di me. E non potevo fare a meno di pensare che lui stava persuadendola a rivolgermi la parola. Credete che fosse così, Miss Woodhouse? Perché ecco che lei si è fatta avanti, mi è venuta vicino e mi ha chiesto come stavo e sembrava pronta a stringermi la mano se volevo. Ma non ha fatto questo al modo che soleva. Io potevo vedere che era mutata, ma in ogni modo sembrava che cercasse di mantenere un tono molto amichevole. Ci siamo strette la mano e siamo rimaste per un po' a parlare in piedi, ma non so più quel che ho detto, mi sentivo un tal tremito addosso. Mi ricordo che mi ha detto che le dispiaceva assai che non ci si incontrasse mai ora, che a me è parso quasi troppo gentile. Cara Miss Woodhouse, mi sentivo assolutamente infelice. Intanto cominciava a spiovere e io ero decisa che nulla mi avrebbe trattenuto dall'andarmene e allora, pensate, mi sono accorta che anche lui stava venendo verso di me, lentamente, sapete, e come se non sapesse che fare. E così è venuto vicino e ha parlato. E io sono rimasta in piedi per un minuto, sentendomi terribilmente. Sapete, non si può dire come. Poi mi sono fatta coraggio e ho detto che non piovevo e che dovevo andarmene, e così sono partita. E non avevo fatto 3 metri fuori dalla porta che lui mi è venuto dietro, per dire solo che se andavo a Arfield, pensava che avrei fatto meglio a passare dalle stalle di Mr. Cole, perché avrei trovato la via diretta assolutamente allagata da questa pioggia. Oddio, pensavo che ne sarei morta. Così gli ho detto che gli ero molto obbligata, sapete, non potevo far di meno. E allora lui è tornato da Elizabeth e io sono venuta dalla parte delle stalle, così almeno mi pare. Ma non sapevo neanche dove mi trovavo, non avevo idea di nulla. Oh, Miss Woodhouse, avrei fatto qualunque cosa perché questo non succedesse. Eppure, sapete, c'era una certa soddisfazione a vedere che si comportava così affabilmente e cortesemente. E anche Elizabeth. Oh, Miss Woodhouse, parlatemi, rendetemi di nuovo tranquilla. Emma desiderava di farlo proprio sinceramente, ma non era in suo potere così in 448. Fu obbligata a fermarsi a pensare. Lei stessa non si sentiva del tutto tranquilla. La condotta del giovane e di sua sorella pareva dettata da un vero sentimento, ed essa non poteva che commiserarli. Nel loro contegno, come lo descriveva Harriet, c'era stata una commovente mescolanza d'affetto ferito e di delicatezza genuina. Ma anche prima essa li aveva ritenuti gente buona e degna. E che differenza faceva ciò per gli inconvenienti di quel matrimonio? Era da sciocchi lasciarsene turbare. Naturalmente a lui doveva dispiacere di perderla, doveva dispiacere a tutti loro. L'ambizione era stata probabilmente mortificata, oltre che l'amore. Tutti potevano aver sperato di innalzarsi per via della conoscenza di Harry. E inoltre, che valore aveva la descrizione di Harry? Così facile a contentare, così poco penetrante, che significava la sua lode? Si sforzò e cercò di tranquillizzarla, considerando tutto quel che era accaduto come una cosa di nessuna importanza, su cui non valeva la pena indugiare. «Può essere stato penoso lì per lì», disse, «ma mi sembra che vi siate comportati benissimo. E ora è passato, può non ripetersi di nuovo, anzi non si ripeterà di nuovo, come primo incontro, per cui non dovete pensarci». Edith disse che era verissimo e che non ci avrebbe pensato, ma pure seguitava a parlarne, pure non poteva parlare d'altro. Ed Emma, alla fine, per farle uscire i Martin dalla testa, fu obbligata a precipitare l'annuncio che avrebbe desiderato di dare con tanta tenera cautela, non sapendo lei stessa se rallegrarsi o arrabbiarsi, vergognarsi o solo divertirsi di un tale stato d'animo della povera Eddie, di una tal conclusione di importanza che aveva per lei Mr. Elton. Tuttavia i diritti di Mr. Elton ripresero vigore a poco a poco. Sebbene essa non sentisse il colpo della prima notizia, come avrebbe potuto sentirlo il giorno prima o un'ora prima, l'interesse di quella notizia crebbe ben presto, e prima che avesse termine la loro prima conversazione, a forza di discutere, si era abbandonata, nei riguardi di questa fortunata Miss Hawkins, a tutte le sensazioni di curiosità, di meraviglia, di rammarico, di pena e di piacere, le quali potevano condurre a relegare in sottordine i Martin nella sua fantasia. Emma finì per essere piuttosto lieta che avesse avuto luogo quell'incontro. Era servito ad attutire il primo colpo, senza conservare alcuna influenza allarmante. Al modo in cui viveva ora Harriet, i Martin non potevano giungere a lei senza cercarla dove fino allora era mancato loro il coraggio o l'umiltà di cercarla. Che, dal momento in cui essa aveva rifiutato il fratello, le sorelle non si erano recate da Mrs. Goddard. Sarebbe passato un anno senza che si imbattessero di nuovo e avessero necessità o persino facoltà di parlarci. La natura umana è così ben disposta verso coloro che sono in situazioni commoventi che di una persona giovane che si sposi o muoia sicuramente non si dirà che del bene. Non era passata una settimana da quando il nome di Miss Hawkins era stato fatto la prima volta in Highbury, che in un modo o nell'altro si era scoperto che essa possedeva ogni dote fisica e intellettuale, che era bella, elegante, che aveva ricevuto una squisita educazione ed era perfettamente amabile. E quando Mr. Elton arrivò in persona per trionfare delle sue lieti prospettive e per mettere in circolazione la fama dei nervi della fidanzata, non ebbe altro da fare che dire il suo nome di battesimo e rivelare di qual musicista essa suonava di preferenza le composizioni. Mr. Elton tornò un uomo al colmo della felicità. Se n'era partito respinto e mortificato, deluso in una speranza che gli pareva ben fondata, dopo una serie di quelli che egli aveva ritenuto forti incoraggiamenti, e non soltanto perdendo la dama che gli andava, ma trovandosi degradato al livello d'una che non gli conveniva affatto. Se n'era partito profondamente offeso, tornava fidanzato a una di tanto superiore naturalmente alla prima, di quanto in tali circostanze ciò che si guadagna lo è sempre a ciò che si è perduto. Tornava allegro e soddisfatto di sé, pieno di entusiasmo e di faccende, pieno di noncuranza per Mr. Woodhouse e di sfida per Miss Smith. L'affascinante Augusta Hawkins, in aggiunta a tutti i soliti vantaggi, una perfetta bellezza ed ogni buona qualità, possedeva un proprio patrimonio di tante migliaia che sarebbero state sempre dette 10. Un punto questo che, oltre a conferire alquanta dignità, era assai conveniente. La storia filava bene. Egli non faceva un matrimonio da strapazzo. Aveva conquistato una donna di 10.000 sterline o pressapoco, e l'aveva conquistata con tanta deliziosa rapidità. La prima ora di presentazione era stata seguita così presto da segni di favore. La storia che gli aveva da raccontare a Mrs. Cole della nascita e del progresso dell'innamoramento era così gloriosa, i passi così rapidi, dall'incontro casuale al pranzo da Mr. Green e alla serata da Mrs. Brown, sorrisi e rossori che crescevano di importanza con consapevolezza e agitazione abbondantemente seminate. La dama era stata colpita così facilmente, si era mostrata così dolcemente proclive. In breve, per usare una frase quanto mai comprensibile, era stata così pronta a prenderlo che la vanità e la prudenza erano egualmente soddisfatte. Egli aveva afferrato al tempo stesso sostanza e ombra, beni di fortuna e affetto, ed era proprio l'uomo felice che doveva essere, che parlava solo di sé e dei propri affari, si aspettava di ricevere congratulazioni, era pronto a farsi ridere appresso e con sorrisi cordiali e imperterriti si rivolgeva ora a tutte le signorine del luogo verso le quali poche settimane prima sarebbe stato galante in un modo più cauto. Lo sposalizio non era un avvenimento lontano, poiché i fidanzati potevano fare come piaceva loro e non avevano che da attendere i necessari preparativi. E quando egli di nuovo si recò a Bath, ci fu un'aspettativa generale che una certa occhiata di Mrs. Cole non sembrava contraddire, che, quando la prossima volta egli sarebbe entrato in Highbury, avrebbe condotto la sposa. Durante il suo presente breve soggiorno, Emma l'aveva veduto appena, ma abbastanza per sentire che il primo incontro era superato e per ricevere l'impressione che egli non era migliorato dalla mescolanza di picca e di pretensione che spirava ora dai suoi modi. Essa incominciava di fatto a domandarsi sul serio come avesse potuto mai crederlo simpatico, e la vista di lui era così inseparabilmente associata con alcuni sentimenti molto spiacevoli che, eccetto che da un punto di vista etico, come una penitenza, una lezione, una fonte di proficua umiliazione per il proprio spirito, essa sarebbe stata grata se le avessero assicurato che non l'avrebbe veduto mai più. Gli desiderava ogni bene, ma egli le causava pena, e il benessere di lui, a 20 miglia di distanza, sarebbe stato tanto più soddisfacente. Tuttavia, la pena della sua continuata residenza a Highbury sarebbe stata certo mitigata dal matrimonio. Questo avrebbe impedito molte vane sollecitudini, avrebbe spianato molte difficoltà. Una Mrs. Elton avrebbe fornito una scusa per un cambiamento di rapporti. L'intimità d'una volta poteva essere lasciata cadere senza provocare commenti. Sarebbe stato come un nuovo principio delle loro relazioni di cortesia. Della dama come persona, Emma aveva una scarsa opinione. Andava certo benissimo per Mr. Elton. Era abbastanza raffinata per Highbury, abbastanza avveniente, ma sarebbe sembrata non bella probabilmente accanto a Derry. Quanto alla parentela, Emma era perfettamente tranquilla, persuasa che, nonostante tutte le pretese che egli aveva vantato, e il suo sprezzo per Edith, egli non aveva fatto nulla. Su quel punto pareva che si potesse arrivare alla verità. Che cosa fosse la dama doveva essere incerto, ma chi fosse poteva venire accertato. E lasciando da parte le 10.000 sterline, non pareva che essa fosse affatto superiore a Derie. Essa non recava nome, sangue nobile, parentela cospicua. Miss Hawkins era la minore delle due figlie di un commerciante di Bristol, che è commerciante, naturalmente, bisognava chiamarlo. Ma siccome i profitti complessivi della sua vita d'affari sembravano tanto modesti, non era ingiusto supporre che la dignità del suo ramo di commercio era stata pure assai modesta. Essa era solita passare a Bath buona parte d'ogni inverno, ma la sua residenza era Bristol, proprio il cuore di Bristol, che, sebbene il padre e la madre fossero morti alcuni anni prima, restava uno zio nella carriera legale. Non si azzardava nei suoi confronti nulla di più precisamente onorevole se non che era nella carriera legale. E con lui l'orfana era vissuta. Emma credeva di indovinare che egli fosse lo sgobbone di qualche studio d'avvocato, troppo stupido per far carriera. e tutto lo splendore della parentela pareva dipendere dalla sorella maggiore, che aveva fatto un ottimo matrimonio con un gentiluomo di grandi mezzi, presso Bristol, che teneva due carrozze. Questo era il succo della storia. Questa era la gloria di Miss Hawkins. Oh, se avesse potuto comunicare a Derrick i suoi sentimenti su tutta la faccenda. A forza di discorsi l'aveva persuasa ad amare, ma ahimè non era così facile dissuaderla. Non si poteva dissipare con le parole l'incanto di un oggetto che occupava i molti vuoti del cervello di Harriet. Egli poteva venire sostituito con un altro, certo lo sarebbe stato, nullo poteva essere più chiaro. Perfino un Robert Martin sarebbe bastato, ma null'altro, essa temeva, l'avrebbe curata. Harriet era una di quelle che, una volta che cominciano, sono sempre innamorate, e ora, poveretta, si sentiva assai peggio per questa ricomparsa di Mr. Elton. In un luogo o in un altro le capitava di vederlo sempre qualche momento. Emma lo vide una volta sola, ma due o tre volte al giorno si poteva essere sicuri che Harriet l'incontrava appena, o non l'incontrava per poco, o udiva solo la sua voce, o vedeva la sua spalla. Insomma, le capitava quel tanto che bastava a serbarlo nella sua fantasia, in tutto il favorevole calore della sorpresa e della congettura. Inoltre essa non faceva che sentir parlare di lui. Perché, eccetto quando era Arthur, si trovava sempre tra coloro che non vedevano difetti in Mr. Elton e non stimavano nulla così interessante come discutere delle sue faccende. E perciò ogni voce, ogni ipotesi, tutto ciò che era già accaduto e ciò che poteva accadere nella sistemazione delle sue cose, riguardante reddito, servitori e mobilio, era continuamente agitato intorno a lei. La sua considerazione per Mr. Elton si rafforzava per le invariabili lodi di lui. I suoi rimpianti erano tenuti desti e i sentimenti irritati da incessanti ripetizioni della felicità di Miss Hawkins e da continue osservazioni su come gli sembrava affezionato, sull'aria che aveva mentre passava dinanzi alla casa, sul modo col quale portava il cappello, tutte cose che provavano l'intensità del suo amore. Se fosse stato un divertimento permesso, se non ci fossero stati pena per la sua amica o rimprovero per lei stessa negli ondeggiamenti dell'animo di Harriet, Emma se la sarebbe spassata con le sue variazioni. Talora predominava Mr. Elton, talora predominavano i Martin, e spesso ciascuno era utile come remola all'altro. Il fidanzamento di Mr. Elton era stato la cura dell'agitazione prodotta dall'incontro con Mr. Martin. L'infelicità causata dall'apprendere quel fidanzamento era stata un po' messa da parte dalla visita di Elizabeth Martin da Mrs. Goddard pochi giorni prima. Harriet non si trovava in casa, ma era stato preparato e lasciato per lei un biglietto, scritto proprio nello stile atto a commuovere, un pizzico di rimprovero con un bel po' di gentilezza. E finché non era comparso Mr. Elton in persona, Harriet era stata molto occupata da quel biglietto, a riflettere, senza fine, a come poteva venir contraccambiato, e a desiderare di fare di più di quanto non osava confessare. Mr. Elton in persona aveva scacciato simili pensieri. Mentre lui fu a Ivory, i Martin vennero dimenticati, e la mattina stessa in cui egli ripartì per Bath, Emma, per dimenticare un po' della pena causata da quella partenza, giudicò che fosse meglio per Harriet contraccambiare la visita di Elizabeth Martin. Come bisognava rispondere a quella visita, che cosa sarebbe stato necessario e che cosa avrebbe potuto essere più prudente, era stata materia di qualche esitazione. Assoluta noncuranza per la madre e le sorelle, quando era stata invitata ad andare, sarebbe passa ingratitudine. Non doveva essere, eppure che pericolo entrare di nuovo in rapporti. Dopo averci pensato su parecchio, Emma non poté decidere niente di meglio che far restituire a Harriet la visita, ma in modo che, se quelle capivano, le avrebbe convinte che si sarebbe trattato d'ora in poi solo di una conoscenza di cerimonia. Intendeva di portarla nella sua corrazza, deporla al mulino dell'abbazia, mentre lei avrebbe fatto proseguire per un po' il cocchiere, e poi sarebbe venuto a riprenderla così presto da non lasciar tempo per insidiose sollecitazioni o pericolose riesumazioni del passato, e da dare la più decisa prova del grado di intimità che era stato scelto per futuro. Non sapeva pensare nulla di meglio, e sebbene in ciò vi fosse qualcosa che il suo proprio cuore non approvava, un sapore di ingratitudine appena mascherato, così doveva farsi. O cosa sarebbe accaduto di Harriet? Harriet aveva ben poca voglia di far visite. Soltanto mezz'ora prima che la sua amica venisse a prenderla da Mrs. Goddard, le sue cattive stelle l'avevano condotta proprio nel posto dove in quel momento un baule, indirizzato al reverendo Philip Elton White Hart Bath, poteva vedersi mentre veniva caricato sul furgone del macellaio che doveva trasportarlo dove passavano le diligenze. E ogni altra cosa al mondo, eccettuati quel baule e quell'indirizzo, fu di nuovo abolita. Tuttavia essa ci andò. E quando giunsero alla fattoria, ed essa stava per essere messa a terra, in fondo al largo e ben tenuto viale di ghiaia, che tra i teri a spalliera menava alla porta d'ingresso, la vista di tutte quelle cose che le avevano fatto tanto piacere l'autunno precedente, cominciava a ravvivare un po' d'agitazione locale. E quando si lasciarono, Emma osservò che guardava intorno con una sorta di curiosità paurosa, e questo la decise a non permettere che la visita si protraesse oltre al quarto d'ora progettato. Essa proseguì per dedicare quel periodo di tempo a una vecchia domestica che era sposata e si era stabilita a Donwell. Al termine del quarto d'ora, essa si trovava di nuovo puntualmente al cancello bianco e Mrs. Smith, chiamata, fu con lei senza indugio e non scortata da un allarmante giovanotto. Venne sola per il viale di ghiaia, mentre una Miss Martin si affacciava appena alla porta e si separava da lei apparentemente con cerimoniosa urbanità. Harriet non poté dar subito un resoconto intellegibile, era troppo commossa, ma alla fine Emma riuscì a cavarle fuori abbastanza da capire che sorta di incontro era stato e che sorta di pena produceva. Harriet aveva veduto soltanto Mrs. Martin e le due ragazze. L'avevano ricevuta dubbiosamente, se non freddamente, e per quasi tutto il tempo non si era parlato altro che dei più banali luoghi comuni, finché proprio alla fine, quando l'improvvisa constatazione di Mrs. Martin che Miss Smith era cresciuta, aveva introdotto un tema più interessante e maggior cordialità. Proprio in quella stanza essa era stata misurata il settembre precedente insieme con le sue due amiche. C'erano i segni della matita e i dati sul rivestimento di legno della parete accanto alla finestra. Le aveva misurate lui. Tutte sembravano ricordarsi il giorno, l'ora, la riunione, l'occasione. Sembravano provare gli stessi sentimenti, gli stessi rimpianti, essere pronti a tornare all'affiatamento d'una volta. E stavano appunto ritornando quelle di prima, Harriet, come doveva sospettare Emma, non meno pronta delle altre ad essere cordiale e felice, quando era riapparsa la vettura e tutto era finito. Allora si sentì che lo stile della visita e la sua brevità erano decisivi. Concedere 15 minuti di orologio a coloro con le quali essa aveva passato con gratitudine 6 settimane, neanche 6 mesi prima, Emma non poteva fare a meno di immaginarsi la scena e di sentire quanto giustamente esse potevano risentirsi. Quanto naturalmente Harriet doveva soffrire. Era un brutto affare. Essa avrebbe dato parecchio, o sopportato parecchio, perché i Martin fossero su un più alto gradino sociale. Erano tanto meritevoli che sarebbe bastato solo un pochettino più su, ma, stando le cose come stavano, come avrebbe lei potuto agire diversamente? Impossibile. Non poteva pentirsi. Essi dovevano venire separati, ma il processo era assai penoso. Tanto penoso per lei stavolta che ben presto sentì la necessità di un po' di conforto e risolvette di tornare a casa passando da Randalls per procurarselo. Non ne poteva più di Mr. Elton e dei Martin. Era assolutamente necessario rinfrescarsi a Randalls. Era una buona idea, ma quando la carrozza fu giunta alla porta appresero che né il padrone né la padrona erano in casa. Erano usciti entrambi da qualche tempo. Il servo credeva che si fossero recati a Hartfield. «Questo è proprio seccante!» esclamò Emma mentre si allontanarono. «Ed ora arriveremo troppo tardi per trovarli altri, proprio irritante. Non credo di aver mai avuto un tale disappunto». E si sprofondò nell'angolo per abbandonarsi ai suoi brontolii o per scacciarli ragionandoci su. probabilmente un po' di tutte e due le cose, tale essendo il comune modo di comportarsi di un animo non maldisposto. Ed ecco che la carrozza si fermò, e senza gli occhi, era stata fermata da Mr. e Mrs. Weston, che stavano lì fuori per parlarne. La loro vista produsse un immediato piacere, e un piacere ancora più grande produsse il suono delle voci, che a Mr. Weston immediatamente la abbordò con «Come state? Come state? Abbiamo passato un po' di tempo con vostro padre e sono lieto di trovarlo tanto bene. Frank viene domani. Ho ricevuto una lettera stamattina. Lo vediamo domani all'ora di pranzo con certezza. Oggi è a Oxford e viene per 2 settimane intero. Sapevo che sarebbe stato così. Se fosse venuto per Natale, non si sarebbe potuto fermare 3 giorni. Sono stato sempre contento che non sia venuto per Natale. Ora avremo proprio il genere di tempo che ci vuole per lui, bello, asciutto, stabile. Ce lo godremo completamente. Tutto è accaduto esattamente come potevamo desiderare». Non si poteva resistere a tale notizia, e non era possibile evitare l'influsso di una faccia felice come quella di Mr. Weston, e tutto era confermato dalle parole e dall'espressione di sua moglie, più scarse le une, più calma l'altro, ma non meno efficaci. Sapere che essa riteneva sicura la sua venuta bastava per far sì che Emma la considerasse tale, e sinceramente essa gioì della loro gioia. Era un'incantevole rianimazione del suo spirito abbattuto. Il logoro passato fu sommerso nella freschezza di ciò che stava sopravvenendo, e nella rapidità di un pensiero di un attimo, essa sperò che ora non si sarebbe parlato più di Mr. Elton. Mr. Weston le fece la storia degli impegni a Enscombe, che permettevano a suo figlio di garantire di avere 2 intere settimane a sua disposizione, e le descrisse pure l'itinerario e il metodo del suo viaggio, ed essa ascoltò e sorrise e si rallegrò. Presto lo condurò a Arfi, disse egli come conclusione. Emma poté immaginarsi di vedere sua moglie toccargli il braccio a questo discorso. «Faremmo bene a muoverci, Mr. Weston», disse lei. «Tratteniamo le ragazze. Bene, bene, sono pronto». E volgendosi di nuovo a Emma, «Ma non dovete aspettarvi un giovanotto proprio così bello. Avete avuto solo la mia descrizione, sapete. Oso dire che realmente non è niente di straordinario. Sebbene gli occhi di lui, che in quel momento scintillavano, esprimessero una ben diversa convinzione». Emma poté assumere un aspetto perfettamente ignaro e innocente e rispondere in un modo che escludeva ogni riferimento a se stessa. «Pensa a me domani, mia cara Emma, alle 4 circa», fu la raccomandazione di Mrs. Weston al momento di separarsi, detta con qualche ansia e diretta solo a lei. «Alle 4, stai più sicura che egli sarà qui alle 3», fu la rapida correzione di Mr. Weston, e così terminò un incontro quanto mai soddisfacente. Lo spirito di Emma si era del tutto sollevato alla felicità. Ogni cosa aveva un'aria diversa. James e i suoi cavalli non sembravano così lenti come prima. Quando guardò le siepi, pensò che almeno il sambuco sarebbe fiorito presto. E quando si rivolse a Harriet, vide qualcosa come un barlume di primavera, un tenero sorriso anche sul suo volto. «Mr. Frank Churchill passerà per Bath, oltre che per Oxford?» Era tuttavia una domanda che non prometteva molto, ma nella geografia, nella tranquillità, potevano venire tutto a un tratto, ed Emma adesso era d'umore di risolvere che essi dovessero venire entrambe a suo tempo. Arrivò la mattina dell'atteso giorno, e la fedele allieva di Mrs. Weston non dimenticò alle 10 o alle 11 o alle 12 che doveva pensare a lei alle 4.